finito i 10 mesi, cioè lo fanno, lo Stato lo fa con lo scopo, in modo che tu prendi una persona a lavorare, passati 10 mesi, hai finito il provvisionamento da parte dello Stato, però dovresti assumerlo, quella è la legge, invece appena che finisce il contributo da parte dello Stato, cosa fa l'azienda? Non ho più lavoro, non mi va bene, bumba, e lo butta fuori. Questo qui, anche quello è un tipo di sfruttamento, se vogliamo, da parte dell'azienda, però sono tutte cose che deve rivedere lo Stato, non certamente noi, e soprattutto ripeto, i sindacalisti, che sono quelli che dovrebbero difendere i lavoratori, invece quelli lavoratori li sfruttano e basta, e li istigano a fare sempre macello, che stanno distruggendo l'Italia anche, tra l'altro, difendendoli per certe situazioni. Avanti già. Sì, ma infatti, ci giocava molto, anche i datori di lavoro fanno firmare anche le dimissioni in bianco, tutte queste cose qua, tu firmi e loro scrivono quello che vogliono, quando ti vogliono mandare via ti mandano via, fanno così. Appunto, sì, che io ho fatto 50 anni artigiano, non un giorno, ho 50 anni e oltre, io non ho preso mai un centesimo dallo Stato, mai, nessuno si è personalmente niente. Ho fatto quello che ho potuto fare solo e esclusivamente con le mie forze. È sempre con le mie mani, senza l'aiuto di nessuno, perché intanto lo sapevo, se io prendo un personale, poi non ce la farei a pagarlo, cosa faccio? Chiudo oppure lo mando via? Non va bene così, a preferenza non prendo nessuno, nel frattempo non insegno lavoro a nessuno, muoio nei mestieri, come sta succedendo in Italia, che anche l'altro giorno il Briatore si è lamentato, dice che fra 20 anni non ci saranno più mulatori, non ci saranno più operai, questo mi ha detto Briatore l'altro giorno. A parte il fatto che anche lui magari probabilmente sfrutterà anche i suoi lavoratori, perché uno che fa tanti soldi come li ha fatti lui sicuramente qualche traffico sotto sotto lo fa, però almeno se non altro dà del lavoro alla gente, e so che li paga anche bene, tra l'altro, anche se poi lui magari fa pagare una pizza a 150 euro, ma quelle sono cose sue, chi ci vuole andare ci va nella sua pizzeria a mangiare a 150 euro l'una, chi non ci vuole andare nessuno è obbligato. Avanti Marco. Senza considerare che Giulio Briatore, a parte che per me Briatore, Gianluca Vacchi, queste persone qua sono dei grandi, perché comunque Briatore dà lavoro a tantissime persone, a tantissime. Cosa ti volevo dire? Considera che a 17 anni Briatore era già amministratore delegato di un'azienda di vernici, a 17 anni, capito? Poi giustamente con le sue forze e la sua testa e i suoi soldi soprattutto, perché se non c'è quelli ne puoi avere idee, ma la Benetton rimane lì, eccetera eccetera, no? Perché i soldi poi li fai girare, li sai far girare, eccetera eccetera. Sì, ma è così, però innanzitutto bisogna sempre avere volontà di lavorare, se non c'è volontà di lavorare niente da fare, questo senza lavoro non si può ottenere niente. Io avevo 27 anni, 28 anni circa quando mi sono messo in proprio e ho lavorato per 50 anni, invece oggi i giovani a 40 anni ancora non hanno iniziato a lavorare, nemmeno una giornata di lavoro, perché hanno vissuto da sopra le spalle della pensione dei genitori, magari da pensione da punti di fame, però siccome non fanno niente adesso c'è il reddito di cittadinanza e arrotondano, si prendono il reddito di cittadinanza, vanno a fare qualche lavoretto e tutto il resto della giornata se la passano al circolo. Tu non vedi altro che i circoli di Sassari sempre pieni sempre di questa gentaglia, perché per conto mio è gentaglia quelli che non vanno a lavorare, perché nella vita per campare e per non essere dipeso a nessuno bisogna lavorare. Vai Gianni. Ho sbagliato il microfono. Lo so, è così infatti. Molta gente ci giostra su queste cose qua, ne approfitta. Mentre invece chi gli dà la cittadinanza dovrebbe lavorare per ottenerlo, se no niente. Ma infatti era finalizzato a quello. In origine loro volevano fare questi corsi formativi, nel frattempo prendevi il reddito, facevi questi corsi formativi che poi non sono mai fatti, una volta che eri formato per il lavoro, mi pare avevi due potevi, ti facevano due proposte, se rifiutavi la seconda ti sospendevano il reddito. Invece poi non hanno fatto né corsi formativi né proposte, capito? Hanno allargito un po' così a chiacchiere cane. E poi hai visto, hanno chiuso il rubinetto parzialmente, adesso poi non ho approfondito, no, non mi riguarda il reddito a me. Sì, tutto è volato al vento. Aspetta che non ti ho copiato, mi devo regolare il volume più alto, dimmi. Ho detto tutte parole volate al vento, proposte sì, ma poi non le hanno messe in atto. Sì, ma poi infatti i corsi dove si dovevano svolgere, chi li doveva svolgere, c'è tutto campato in aria, fanno le proposte, però i soldi li hanno dati e poi anche lì hanno fatto truffe, soprattutto al sud Italia come sempre, ma truffe milionarie di euro, forse un miliardo di euro di truffe, gente che si spacciava, che aveva aziende, macchinoni, si faceva vedere con le mutande bucate per avere il reddito, ma quella è proprio, vabbè, non so nemmeno cosa sia, proprio sputare sui poveri, mi capisco. Gente che fingeva di abitare lì, di abitare da solo, magari mettendosi con due o tre amici, pur di percepire, e poi magari dormivano a casa loro, come sempre. E comunque un po' le stanno sgamando queste cose. Per esempio in Sardegna c'è stata qualche settimana fa una di queste, non a Sassari però, è più a su, più giù, una grossa cosa di truffe e danni dello Stato per questo reddito di cittadinanza. E, insomma, ogni tanto fanno le cose, li sgamano, perché se vuoi indagare e vedi che questo non coincide, quest'altro non coincide, poi tirano le somme e poi li devi restituire anche. Se sono restituibili poi, bisogna vedere come li riprendono. A Sassari hanno sgamato la truffa sulla ristrutturazione dei palazzi. Sì, l'ho letto oggi. Allora, l'ho letto oggi, ci sono un'ottantina di persone o un centinaio tra condomini, imprese, amministratori condominio, e chi non so altro, chi per tipo che hanno gonfiato a morte le fatture per far sembrare che la roba costava di più, insomma, un casino anche quello. E si aspetta che sia, poi voglio leggere i nomi. Fate a pensare al 110, tutte le truppe che hanno fatto, perché non lo Stato lo vuole togliere il 110? È quello. Passato, anziché avere una certa somma, ne danno un'altra, proprio per effetto di tutte le truffe che hanno scoperto, per cui si può immaginare. Poi, tornando al discorso, innanzitutto bisogna che i genitori imparino ad educare i propri figli. Io mi ricordo, mio padre mi diceva a me, premesso che io ne avevo già uno di mestiere, quando sono rimasto disoccupato perché la ditta dove lavoravo aveva fallito, sono rimasto senza lavoro. Ed ero già grandetto. Mio padre, che era capo operaio in un'azienda, ha fatto: ascolta, tu vieni con me adesso, quando stai a trovare lavoro, non è che mi ha lasciato libero così di fare quello che mi piaceva o per le strade, no, mi ha portato in falegnameria da lui e da lì sono diventato falegname primo. E la prima cosa che mi diceva: tu non ti preoccupare mai dei soldi, tu prendi quello che ti danno, perché la prima cosa che devi fare tu è imparare il mestiere. Dopo che avrai il mestiere, allora i soldi arrivano, perché te li danno, perché ti pagano da operaio. E così è stato. Invece oggi i genitori mandano: ma ti sembra che mandano mio figlio io a sfruttarlo da questo disgraziato a lavare piatti o a fare l'elettricista o a fare il falegname, e le danno la miseria? Ma così che deve parlare un genitore? Così tu il tuo figlio lo fai diventare delinquente, lo fai diventare, e ne stiamo vedendo gli effetti sempre. Vai Gianni. L'apprendistato va bene Giulio, ma l'operaio lo devi pagare, il minimo che dice la legge la devi dare, non è questione di che uno deve imparare e deve andare a lavorare gratis, capito? E il salario minimo glielo devi dare, poi se prende qualifiche se è un altro discorso, però il salario minimo glielo devi dare, non è che puoi dire vieni a lavorare perché a gratis o ti do qualcosa per il fine settimana perché stai imparando, no, tu mi sfruttendi, tu mi sfruttendi, non è che mi stai dicendo così. così perché io devo imparare il mestiere, ma stiamo scherzando. Certo, pagare lo deve pagare lo stesso, quello lo deve pagare sempre in base a quello che sa fare, perché tu non puoi pagare un ragazzo che è appena entrato a lavorare in uno stabilimento o in una impresa con gli stessi soldi che devi dare all'operaio. Ma vuoi scherzare? Come fa l'azienda a mantenere un operaio che non rende? O meglio, un ragazzo che prende lo stipendio di un operaio e non ti rende? L'operaio almeno ti rende, se non altro. Poi che sia pagato basso, questo lo sappiamo, è sempre stato così e sarà sempre così, è inutile illudersi, perché il lavoratore avrà sempre un salario basso rispetto al costo della vita, eccetera, eccetera. Però ci sono anche troppe pretese, Luca, io non posso prendere un ragazzo a 17-18 anni e portarmelo per dire in fare gli amici e dargli la scopa a raccogliermi la segatura che io faccio durante il giorno. Non gli posso dare quei soldi che prende un operaio, tanto vale lui lo lascio a casa e mi prendo un operaio, così almeno l'operaio sa lavorare e mi rende. Ecco qual è il discorso che ti voglio fare io, Luca. È la stessa cosa che tu guarda la busta paga di un muratore, ok, un muratore, è la busta paga di un manovale, cioè i muratori si dovrebbero impiccare, perché per poco il manovale prende più del muratore. È sempre stato così, non è giusto, ci deve essere un bel po' di differenza, non 60-100 euro di differenza al mese, ma ce ne devono essere molti di più, perché il muratore ha anche la responsabilità. No, il manovale non ce l'ha la responsabilità, Giulio, è il muratore che ce l'ha la responsabilità di quello che sta facendo, perché il geometra poi, no, secondo il cantiere, che va direttamente dal muratore, non va dal manovale, che il manovale gli ha fatto la calce e gli ha passato i mattoni. Hai capito qual è la differenza? Sì, quello sì, che poi lì c'è da scagliare una lancia a favore anche dell'apprendista, parlando di muratori, io sto parlando di muratori, lascia perdere le altre categorie, ma siccome il muratore è una categoria di lavori molto ma molto usuranti, che cosa succede? Che alla fine della giornata l'apprendista, o meglio il manovale, dai, il manovale, non diciamo l'apprendista, il manovale ha lavorato 10 volte più del muratore. Perché? Perché il manovale ti ha portato tutti i materiali, ce li ha messi sotto i piedi, tu non hai fatto altro che metterti e fare la muratura o fare, che so io, l'intonaco, però ti ho preparato tutto io, tutto quello che è di molto pesante l'ha preparato, ma questo riguarda solo esclusivamente i lavori usuranti. Ma se tu sei un apprendista falegname o un apprendista elettricista o un apprendista fabbro, a te non ti posso dare i soldi che do a un operaio, perché tu a me non solo che non mi rendi, ma mi fai anche danno. Se ti metto a lavorare, tu mi fai anche danno, perché non lo sai fare il lavoro e mi distruggi anche i materiali. È quello, Luca, il problema. Infatti quello che dico io, non bisogna gli stipendi di diversificarli dal manovale al muratore, dall'apprendista appunto all'elettricista bravo. Comunque, però perché 17 anni, 1500 euro sono tanti, sono veramente tanti per uno che sta imparando appunto è quello il discorso. Se prendi 1500 euro, almeno i soldi per pagarti ti deve rendere, e invece non te li rende, devi lavorare tu, o meglio devono lavorare gli altri per pagare quello che non le rende. Non è possibile. Guarda, io, se a me mi avessero dato, dopo che ho finito di lavorare, se mi avessero detto, vuoi fare formazione di lavoro, certo che lo voglio fare, nel mio lavoro, nel mio mestiere posso fare, allora tu a me mi metti a disposizione un locale, mi dai i macchinari, mi dai il materiale e mi dai anche i ragazzi, per quanti ne vogliono venire ad imparare a fare il falegname, io le insegno anche gratis, però devo essere dispensato da qualsiasi spesa. Invece no, se tu apri un'azienda o un locale devi pagare le tasse per tutti quanti, ma questo io non lo posso fare. Io sono solo propenso ad insegnare il lavoro, visto e considerato che oggi i mestieri si stanno scomparendo tutti quanti, perché tu non trovi più i mestieri, assai casa, vai e trovami più di 5 operai, se ce ne sono, parlo di falegnami, trovami più di 5 operai, non ci sono, guarda, assolutamente. C'è ragione, è così, sta morendo tutto. Io penso che ero ancora all'inizio delle scuole medie, quando facevo appunto il panettiere, e andavo a lavorare la sera alle 9, ok, perché entravamo a quell'ora, alle 9, e uscivo alle 6, perché? Ma perché uscivo alle 6? Perché dovevo venire a casa, lavarmi e andare a scuola, capito, finché non ho preso la licenza media. E credimi, non è stato tanto leggero, tanto bello, perché iniziare a lavorare alle 9 di sera e fino alle 6 del mattino e poi andare anche a scuola non è una cosa tanto, tanto leggera, però l'ho fatto perché poi con la licenza media mi poteva assicurare tutto quanto, capito? Ma l'ho fatto perché e mi piaceva anche, caspita. E appunto adesso tu fai la differenza tra la mia età e la tua, e l'hai fatto, mai detto che ci sono 30 anni di differenza, va bene, figuriamoci allora nella mia generazione se si lavorava in quel modo. Certo che si lavorava in quel modo, si andava a scuola e si andava a lavorare, e chi aveva voglia di diplomarsi o di laurearsi si è diplomato, si è laureato, chi ha potuto perlomeno, perché anche quelle sono spese, sono tutte le famiglie ce la potevano fare a mantenere i figli a scuola, indipendentemente dal fatto che ho la volontà di uno che avesse di studiare o meno. Per dirti, no, ci sono mille situazioni che oggi come oggi il giovane di oggi non vuole affrontare, ma non vuole affrontare perché è stato educato in una certa maniera. Invece vai a scuola e già si deve parlare anche di orientamento professionale, e non puoi tu incominciare a scuola, fai prima le medie, poi vai alle superiori, poi scegli una facoltà all'università e quella non ti piace, dopo 2 anni, 3 anni non sei riuscito a dare esami e cambi facoltà e così via, oppure vai al liceo, la stessa cosa, ma non mai, poi alla fine ti ritrovi a 40 anni e ancora no, non hai dato l'esame e non ti sei laureato, intanto nel frattempo la famiglia ha speso la banca di soldi. E questo è il discorso, o Luca, il giovane di oggi non ne ha voglia, poi ci saranno anche quelli che hanno voglia di imparare, che hanno voglia di affermarsi, questo sì, non dico che siano tutti uguali, però stai tranquillo che almeno una larghissima percentuale di giovani oggi non ne hanno voglia di fare niente, né di lavorare e né di studiare, questo è scontato. Vai Marco, ci sei, oppure Gianni? Vabbè. Diciamo che ci sono un po' e un po', dai, c'è quello che ne ha voglia e quello che non ne ha voglia. Io per dire, mio figlio adesso sta facendo la stagione, pure studia all'università, e adesso ha trovato lavoro a fare la stagione, sta facendo la stagione fino a settembre, per cui adesso deve venire stasera a trovarmi perché oggi è libero ed è venuto da Porto Istara, è venuto qua per trovare i genitori, e poi riparte da domani e ricomincia a lavorare. Ma è così, se uno ha voglia di fare, lavora. Io ne ho tante di nipoti, eppure tutti quanti sono sistemati, chi ha studiato, chi non ha studiato sta lavorando, e chi ha studiato è un laureato e sta lavorando lo stesso, e ne ho nipoti giornalisti, ho nipoti avvocati, e ho nipoti operai, e ho nipoti commercianti, e così via. Ci vuole volontà nel fare, ma tutto questo deve nascere sempre dalla famiglia. Se tu sei nato in una famiglia per la quale non è stato in grado di darti una certa educazione, il giovane, dico giovane che poi a 40 anni non è più giovane, è già un uomo adulto abbastanza, e allora non dagli nemmeno colpa, perché quello l'hai educato male, tutto sommato lui non ne ha voglia, ma tu hai più torto di lui che non sia stato in grado di educarlo. Io la penso così. Avanti Luca. È così. Prendi mio figlio lo stesso, mio figlio è 3 anni in Germania, non un giorno, 3 anni, eppure se voleva senza VAC il reddito di cittadinanza, eppure non l'ha fatto, capito? Ha preso e se n'è partito in Germania, è già 3 anni lì, fa il pizzaiolo. e non è facile sicuramente, non è stato facile per me, anche io quando sono partito fuori, a 22 anni sono partito fuori a lavorare, però ero qua, ero a Parma, non è che ero, era un'ora da qua, sicché potevo venire in qualsiasi momento, ma andare fino in Germania all'età appunto di 22 anni, che lui è partito che ne avrà 22, non è una cosa neanche tanto facile, essendo poi da solo, non è che è andato lì sapendo che c'erano familiari o che cosa, c'erano queste, i classici annunci che mettono, cercasi pizzaiolo, cercasi in Germania, ce ne sono sempre di vitto alloggio, 1800 euro, anche 2000, arriva vitto alloggio, capito? Ed è ancora vivi, grazie a Dio. Ma è così Luca, tu mi hai tanto per dirtene una, io ho un nipote abbastanza giovane che è stato, che è diplomato all'alberghiero, lui appena ha preso il diploma subito, dopo una settimana stava già lavorando. Beh, adesso è già alcuni anni che è diplomato e lui non ha perso una sola giornata di lavoro da quando si è diplomato ad adesso. È andato fuori anche in Alta Italia, ha lavorato alla Costa Smeralda, insomma lavora sempre. È un ragazzo che tra l'altro è di famiglia povera, oltretutto, perché è il figlio di un mio nipote, che anche lui praticamente è come se fosse mio nipote, anzi è mio nipote, magari di secondo grado, però è sempre mio nipote, per dirti, no, però ha voglia di lavorare, si è fatto da solo, si è preso la macchina, vive e si mantiene da solo, perché? Perché ha voglia di lavorare, e questo è il problema, ma vai tu e trovamene tante di questi giovani che si comportano nella vita in questa maniera, lascia perdere, compreso. Cioè c'è babbo e mamma dice che mi mantiene fisicamente a 50 anni e poi magari se non gli dai anche i soldi vanno e picchiano i genitori, questa gente perché hanno certe pretese, magari dai, avanti Gianni. E allora ti ringrazio per avermi lanciato che sono arrivati mio figlio con la ragazza, dai adesso vi saluto e vi auguro un continuo questo a tutti quanti e faccio corretti, dai, purtroppo diciamo che devo lasciare, dai. Ciao a tutti. Gianni, tuo figlio è venuto per trovare un ragazzo, non per trovare se di la verità. No, diciamo che con questa qua è seriamente, l'ha portata a casa e quindi adesso dopo averne avuto una gelata, adesso questa qua si è fermata, dai. Meno male che ha sul capo. Va bene, dai, ci sentiamo. Ciao Gianni, ciao. Avanti, ma Marco c'è ancora? Buon divertimento in famiglia comunque. Marco, ci sei? Sì, ciao Gianni, buon proseguimento di serata. Sì, sono qua, sono ogni tanto a bere e sto ascoltando il discorso, dai. Io già mi sono cullato negli allori, ma poi la sto pagando adesso, capito? Troppa mollezza da parte mia, poca forza fisica, perché io sempre fisicamente non si capisce il perché di questa presunta stanchezza cronica, ne ho parlato altre volte, no? E dove volevo arrivare? Spronato a destra e a manca, quasi con la pistola puntata alla testa, eppure non è servito. C'è qualcosa fisicamente che non va, non entriamo in dettagli, dai. Marcolino, c'hai un'alternata paurosa. Alternata? Io non accetto la verità. Guarda, vi lascio la portante muta, La Pasino su baracchino, o meglio l'antenna, o nata lì, perché Marco sta facendo benissimo, non c'è il minimo rumore nella sua radio, perfetto Marco, avanti Luca. No, neanche da me ce n'è alternato. Vabbè, ciao, mi assento. Ciao Natali, ben entrato. E qua praticamente stasera all'inizio non sapevamo nemmeno cosa inventarci per passare il tempo e parlare, e poi il discorso è venuto da sé. Capito? E Giulio, cosa ti volevo dire? No, mi è sfuggito di mente, dai. Nathalie, forse lì è che cominciai l'antenna attaccata al muro, ai cavi, tutti i porti, per esempio quando parli ti porti un rumorino, rumori vari, alternatine, rumori strani, capito? È dovuto anche a quello lì, che l'antenna è troppo bassa e sta attaccata al muro. E sicuramente oltre che trasmetterli lì se li tira dentro in ricezione, capito? Sì, poi va, sì. Quel quadro è così che si fa quel seo banco, come abbiamo fatto noi in quest'ultima mezz'ora, no dicendo certe cretinate, vabbè, anche alle volte anche cretinate, magari non abbiamo argomenti e, no, e non le facciamo, però diciamo che la radio dovrebbe servire per fare certi argomenti, tipo quelli che abbiamo fatto, che sono innanzitutto sono argomenti di attualità, poi allo stesso tempo importantissimi per tutti, anche per chi non è interessato al discorso, almeno se non altro chi non è interessato ascolterà, se ha voglia di imparare e seguire qualcosa la può anche fare, però fare certi tipi di discorso anche a me non è che me ne viene voglia, ed è per quello che entro anche poco. Va bene, dai, Natalino non mi sente tanto, io ho lo stesso, ti lascio con lui o Marco e chiacchiera con lui, tanto a me non mi sente, lui ha quel problema d'antenna e non mi sente, ci sentiamo nel prossimo, ringrazio a tutti per il questo, alle prossime, dai. Ciao Marco, riprendi e ascolta fino a lì, dopo chiudo, vai, vai Marco. Non lo senti, vediamo se Natalino lo solo lo copi Giulio oggi, niente, già sparito. Ma sai cos'è Giulio, anche tu usi sempre solo 2 watt, magari mettendo la sua il pieno regime di quella radio, che problemi non ne ha, comunque ti sentirebbe. E non si riesce più da questa situazione che ha Natalino con l'antenna, perché c'ha sempre quella spada di Damocle lì. Vediamo, perché poi va a finire che spende scala aerea, cosa, quello gli fa danno e siamo punti a capo. Dai Giulio, ci saluto se stai andando. E ci sentiamo un'altra volta, dai, quando capita. Sì, sì, Marco, intanto non mi sente, anche se aumenta un pochino, sento un po' di cicolta. Vabbè, ci sentiamo, dai. Ciao, ciao, ci sentiamo, Marco, alle prossime. Grazie per la chiacchierata. Salutamelo tu a Natalino eventualmente, ciao. Natalino. Sì, dai, sto mangiando, Marco. Non posso riprendere per il momento. Questo è il questo mio, Marco. Vabbè, dai, ognuno fa come crede. Ciao, ciao Marco. Sì, ciao, va bene. Natalia, buon pranzo. E ci sentiamo quando capiterai. Ciao a tutti, ciao.